Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Il giovanotto se la diede a gambe, mentre Milady lo minacciava ancora con un gesto impotente. Quando l'ebbe perso di vista, ella stramazzò svenuta nella sua stanza. D'Artagnan era talmente sconvolto che, senza preoccuparsi di Ketty e della sua sorte, attraversò di corsa mezza Parigi e si fermò soltanto dinanzi alla porta di Athos. Lo smarrimento del suo cervello, il terrore che lo pungolava, le grida di alcune pattuglie che si diedero a inseguirlo e i fischi di qualche passante che, nonostante l'ora mattutina, si recava al lavoro, non fecero che affrettarne la corsa. Attraversò il cortile, salì i due piani di Athos e picchiò alla porta come se volesse fracassarla. Venne ad aprire Grimaud con gli occhi gonfi di sonno. D'Artagnan si lanciò con tale violenza in anticamera che per poco, entrando, non lo mandò a gambe all'aria. Athos gli strinse subito le mani esclamando: «Siete ferito per caso, amico mio? Siete pallido come un cencio?» «No, ma mi è capitata un'avventura terribile. Siete solo, Athos? Per Dio, chi volete che ci sia da me a quest'ora?» «Bene, bene.» E D'Artagnan si precipitò nella stanza di Athos. «Su, parlate», disse questi, chiudendo la porta e tirando i chiavistelli per non essere disturbati. «È morto il re? Avete ucciso il cardinale? Siete sconvolto? Su via, parlate, perché veramente muoio dall'inquietudine.» «Athos», disse D'Artagnan, «preparatevi a sentire una storia incredibile, inaudita.» «Allora», disse Athos, «allora», riprese D'Artagnan curvandosi all'orecchio di Athos e abbassando la voce, «Milady è segnata sulla spalla con un giglio.» «Ah!» gridò il moschettiere quasi avesse ricevuto una pallottola al cuore. «Sentite», disse D'Artagnan, «siete certo che l'altra sia proprio morta?» «L'altra?» disse Athos con voce così sorda che l'amico lo udì a malapena. «Sì, quella di cui mi parlaste un giorno, ad Amiens.» Athos emise un gemito e lasciò ricadere il capo tra le mani. «Questa», proseguì D'Artagnan, «è una donna tra i 26 e i 28 anni.» «Bionda», disse Athos, «non è vero?» «Sì, occhi azzurro chiaro, di una chiarezza strana, con le ciglia e le sopracciglia nere.» «Sì, alta, ben fatta. Le manca un dente vicino al canino sinistro.» «Sì, il giglio è piccolo, di colore rossiccio e quasi cancellato dagli strati di pomata che ella vi applica sopra.» «Sì, eppure voi dite che è inglese. La chiamano Milady, ma forse è francese. Ciò nonostante, Lord de Winter è solo suo cognato.» «Voglio vederla, D'Artagnan.» «Badate, Athos, badate. Avete voluto ucciderla. È donna da rendervi la pariglia e da non fallire il colpo. Non oserà parlare, perché equivarrebbe a denunziare se stessa. È capace di tutto, l'avete mai vista infuriata?» «No», disse Athos, «una tigre, una pantera. Ah, caro Athos, temo proprio di aver attirato su di noi una tremenda vendetta.» E D'Artagnan raccontò tutto, per filo e per segno, la collera forsennata di Milady e le sue minacce di morte. «Ah, mio caro, che mi importa se mi uccide?» disse Athos. «Credete per caso che io tenga la mia vita? Sotto tutto questo si nasconde qualche mistero orribile, Athos. Quella donna è una spia del cardinale, ne sono certo. In tal caso badate a voi. Il cardinale, a meno che non senta per voi un'ammirazione straordinaria per la faccenda di Londra, vi odia a morte. Ma siccome in fin dei conti non può rinfacciarvi nulla scopertamente, e l'odio, soprattutto quando è odio di cardinale, esige di essere soddisfatto, badate a voi. Se uscite, non uscite solo. Se mangiate, pigliate delle precauzioni, insomma, diffidate di tutto, perfino della vostra ombra. Per fortuna, disse D'Artagnan, si tratta soltanto di arrivare fino a dopo domani sera senza il tralci, perché una volta al campo spero che avremo da temere soltanto uomini. Questo però non ci aiuta per l'equipaggiamento, caro amico, ripigliò Athos. Fortuna che avete l'anello con lo zaffiro. Lo zaffiro è vostro, caro Athos. Non mi avete detto che era un anello di famiglia? Sì, mio padre lo comprò per 2000 scudi, a quanto mi disse una volta, era tra i doni nuziali che gli fece a mia madre. È splendido. Mia madre me lo donò e io, pazzo, invece di conservare l'anello come una sacra reliquia, ne feci a mia volta dono a quella miserabile. Allora, mio caro amico, riprendete quest'anello, al quale, capisco, tenete molto. Io, riprendere quest'anello dopo che è passato nelle mani di quell'infame, mai. Quell'anello è insozzato, D'Artagnan. Allora, vendetelo. Vendere un gioiello che era di mia madre? Vi confesso che la considererei una profanazione. Allora impegnatelo. Vi presteranno pur sempre un migliaio di scudi. Con tale somma non avrete più fastidi per i vostri affari. Poi, appena riavrete del denaro, lo disimpegnerete e ve lo riprenderete lavato dalle antiche macchie, perché sarà passato fra le mani degli strozzini. Athos sorrise. Siete un simpatico compagno, disse, caro D'Artagnan. Con la vostra eterna allegria risollevate i poveri animi afflitti. E va bene. Impegniamo l'anello, ma un patto. Quale? Che 500 scudi vadano a voi e 500 a me. Neanche per sogno, Athos. Non mi occorre nemmeno un quarto di quella somma. A me che sono nelle guardie e vendendo la sella me la procurerò. Cosa mi ci vuole? Un cavallo per Planchet e basta. Poi dimenticate che anch'io ho un anello, al quale mi sembra tenete ancor di più di quanto io non tenga al mio, almeno così mi pare d'aver capito. Sì, perché in un caso di estrema necessità può trarci fuori non solo da qualche grosso impiccio, ma anche da qualche grave pericolo. Non solo è un prezioso diamante, ma anche un magico talismano. Non vi capisco, ma credo a ciò che mi dite. Torniamo al mio anello, o meglio, al vostro. O prendete metà della somma che ci daranno o lo butto nella Senna e dubito che qualche pesce sia tanto compiacente da riportarcelo. D'accordo allora, accetto, disse D'Artagnan. Seguiti dai servitori, Athos e D'Artagnan giunsero senza incidenti in Rue des Fossoyeurs. Sulla porta c'era Bonacieux che guardò D'Artagnan con un'aria beffarda. «Caro inquilino», disse, «sbrigatevi, c'è una bella ragazza che vi aspetta in casa e alle donne, lo sapete, non piace aspettare». «E Ketty!» esclamò D'Artagnan e si precipitò nell'andito. Difatti, sul pianerottolo che portava alla sua stanza, rannicchiata contro la porta, trovò la povera piccina tutta tremante. Non appena l'ebbe scorto, ella disse: «Mi avete promesso la vostra protezione. Mi avete promesso di salvarmi dalla sua collera. Ricordatevi che siete stato voi a perdermi». «Sì, certo», disse D'Artagnan. «Sta tranquilla, Ketty. Ma cos'è successo dopo la mia fuga?» «Che so io? Alle sue grida sono accorsi i domestici. Lei era pazza di collera. Tutte le imprecazioni possibili e immaginabili le ha vomitate contro di voi. Allora ho pensato che si sarebbe ricordata che voi eravate penetrato in camera sua attraverso la mia e così le sarebbe venuto in mente che ero vostra complice. Ho preso il poco denaro che avevo, gli oggetti di maggior valore e sono scappata». «Povera bambina. Ma cosa farò di te? Io parto dopodomani». «Tutto ciò che vorrete, signor Cavaliere. Fatemi lasciare Parigi. Fatemi lasciare la Francia». «Signor Cavaliere, da vicino o da lontano», disse Ketty, «vi amerò sempre». «Dove diavolo va a annidarsi la costanza?» mormorò Athos. «Anch'io», affermò D'Artagnan, «anch'io ti amerò sempre, sta tranquilla. Ma adesso rispondimi. È molto importante per me la domanda che ti faccio. Hai mai sentito parlare di una giovane rapita di notte? Aspettate, Oh mio Dio, signor cavaliere, forse amate ancora quella donna? No, è uno dei miei amici che l'ama. Ecco, è Athos, questo qui. Io? Esclamò Athos con il tono di chi si accorge di camminare sopra una biscia. Sicuro, voi? Disse D'Artagnan stringendogli la mano. Conoscete l'interesse che prendiamo tutti alla povera piccola Madame Bonacieux. D'altronde Ketty non parlerà, vero Ketty? Tu capisci, bambina, continuò D'Artagnan, è la moglie di quell'orrendo bestione che hai visto sulla soglia dell'uscio entrando qui. Oh mio Dio, gridò Ketty, mi fate tornare la paura. Speriamo che non vi abbia riconosciuta. Come riconosciuta? Hai già visto quell'uomo? È venuto due volte da Milady. Ah sì? E quando? Ma saranno circa 15 o 18 giorni. 15 o 18 giorni. E ieri sera è tornato. Ieri sera. Sì, un momento prima che arrivaste voi. Caro Athos, disse D'Artagnan, siamo circondati da una rete di spie. E tu che ti pensi che ti abbia riconosciuta? Vedendolo ho tirato giù la cuffia, ma forse era troppo tardi. Scendete giù, Athos. Di voi diffida meno che di me, guardate se è sempre sull'uscio. Athos scese e risalì quasi subito. Se n'è andato, disse, e la casa è chiusa. È andato a riferire quello che ha visto, disse D'Artagnan, e a dire che tutti i piccioni in questo momento sono in piccionaia. Bene, ma noi prendiamo il volo, disse Athos, e lasciamo qui soltanto Planchet perché ci racconti quel che succederà. Un momento. «E Aramis, che abbiamo mandato a chiamare?» «Giusto», disse Athos. «Aspettiamolo». In quel momento entrò Aramis. Gli raccontarono quanto era accaduto e gli spiegarono che avrebbe dovuto trovare nel più breve tempo possibile un posto a Ketty presso qualcuno dei suoi conoscenti altolocati. Aramis riflette un attimo, poi disse arrossendo: «Vi renderò davvero un servigio, D'Artagnan. Ve ne sarò riconoscente tutta la vita». Un momento dopo i tre giovani si separarono, dandosi appuntamento alle 4 in casa di Athos e lasciando Planchet a fare la guardia. Aramis se ne tornò a casa. Athos e D'Artagnan si occuparono di piazzare lo zaffiro. Come aveva previsto il nostro guascone, trovarono con facilità 300 pistole, dando impegno l'anello. Anzi, l'ebreo dichiarò che se glielo volevano vendere, l'avrebbe pagato anche 500 pistole perché accompagnava magnificamente un paio di orecchini. Athos e D'Artagnan, con alacrità di soldati e competenze di conoscitori, impiegarono 3 ore appena nell'acquisto dell'equipaggiamento completo da moschettiere. Alle 4, i 4 amici erano dunque riuniti da Athos. Svanite le preoccupazioni per l'equipaggiamento, ogni volto esprimeva soltanto le proprie segrete inquietudini, perché dietro qualsiasi felicità presente si cela un timore futuro. D'un tratto entrò Planchet a portare 2 lettere indirizzate a D'Artagnan. Uno era un bigliettino ben piegato per il lungo, con un grazioso sigillo di ceralacca verde, sul quale era impressa una colomba con nel becco un ramoscello. L'altro era una lettera larga, quadrata, splendente del terribile stemma di Sua Eminenza il Cardinale Duca. Vedendo la letterina, il cuore di D'Artagnan sobbalzò, perché gli era parso di riconoscere la calligrafia e benché l'avesse veduta una volta sola, gliene era rimasto il ricordo nel più profondo del cuore. Prese quindi il biglietto e lo dissuggellò impaziente. «Passeggiate», era scritto, «mercoledì prossimo, tra le 6 e le 7 di sera, sulla strada di Chaillot, e guardate attentamente le carrozze che passeranno. Ma se ci tenete alla vita e a quella delle persone che vi amano, non dite una parola, non fate un gesto che possa far credere che abbiate riconosciuto colei che rischia tutto per vedervi un istante. Nessuna firma». «È un tranello», disse Athos. «Non andateci, D'Artagnan». «Eppure», disse D'Artagnan, «mi pare proprio di riconoscere la calligrafia. Può essere contraffatta, riprese Athos. Alle 6 o alle 7, in questa stagione, la strada di Chaillot è completamente deserta. Tanto varrebbe che andasse a passeggiare nella foresta di Bondy. Ma se ci andassimo tutti, propose D'Artagnan. Diavolo, non ci sbraneranno tutti e quattro. Più 4 domestici, più i cavalli, più le armi. E poi sarà un'occasione di sfoggiare i nostri equipaggiamenti, disse Porthos. Ma sì, concediamoci questo passatempo, disse Aramis, con il suo tono soave e noncurante. Come volete, disse Athos. Ma, disse sempre Athos, la seconda lettera la dimenticate? Pure dal sigillo mi pare che meriti di essere aperta. Dal canto mio vi dichiaro, caro D'Artagnan, che mi preoccupa assai più di quel fogliettino da niente che vi siete fatto scivolare teneramente sul cuore. D'Artagnan arrossì. Ebbene, disse, vediamo, signori, cosa vuole da me Sua Eminenza. Dissuggellò la lettera e lesse. Monsieur D'Artagnan, guardia del re, compagnia des Essarts, è atteso al Palais Cardinal stasera alle 8. Firmato La Houdinière, capitano delle guardie. Diavolo, fece Athos, ecco un appuntamento assai più preoccupante dell'altro. Andrò al secondo di ritorno dal primo, disse D'Artagnan. Uno è per le 7, l'altro per le 8. Ci sarà tempo per tutto. Se avete già deciso, inutile opporsi, disse Athos. Ma la Bastiglia, disse Aramis. Bah, mi caverete fuori, rispose D'Artagnan. Certamente, rispose Aramis e Porthos con ammirevole imperturbabilità e come se la cosa fosse la più semplice del mondo. Certamente vi caveremo fuori, ma intanto, siccome dobbiamo partire dopodomani, fareste meglio a non rischiarla questa Bastiglia. Facciamo qualcosa di meglio, disse Athos. Non lasciamolo un momento per tutta la serata. Aspettiamolo ognuno a una porta del palazzo in compagnia di 3 moschettieri. Se vediamo uscire una carrozza con lo sportello chiuso e un che di sospetto, ci butteremo sopra. È da un pezzo che non ci azzuffiamo con le guardie del cardinale e Monsieur de Tréville deve crederci morti. Decisamente, Athos, disse Aramis, eravate fatto per essere generale d'armata. Che ve ne pare del piano, signori? Eccellente! Ripeterono in coro i giovanotti.